Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di apertura per questo programma. Questa era il brano sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, in diretta come ogni giovedì dagli studi di radio Onde Furlane, anche oggi giovedì 10 aprile 2025. Ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. E vabbè, il brano sigla è Retribution dei Behind Enemy Lines. Magari non lo diciamo quasi mai, ma ogni tanto non fa male ricordarlo. Ora invece andiamo all'ascolto di uno o due brani per questa band storica nata alla fine degli anni 70 in Inghilterra. Loro erano gli X-Ray Specs, dal loro album Adolescence ci ascoltiamo uno o due brani. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think, oh bondage up yours! cliché. Sì, ciao a tutte quelle e quelli che ci ascoltano. Allora, giovedì 10 aprile, e stasera riprendiamo un argomento che avevamo così, non siamo riusciti a così affrontare lo scorso giovedì, e cioè parleremo di questo mito fondativo di Israele, far fiorire il deserto, mito fondativo che ha alla base, diciamo, anche se nascosta nelle parole, l'intenzione di eliminare ogni traccia della società palestinese e di cancellare del tutto il popolo palestinese, a partire dalla Nakba e quindi dal 1948 fino all'attuale genocidio di Gaza. Faremo sempre un parallelismo, diciamo, un collegamento tra Deir Yassin, il massacro di Deir Yassin del 1949, e appunto la situazione attuale di Gaza, attraverso la testimonianza di una scrittrice, insomma, che racconta un po' come Gaza non potrà essere mai un Deir Yassin, e poi dopo vedremo in cosa consiste. E infine parleremo un po' di una rivista che distribuiamo anche nello spazio autogestito di Via dei Rubeis 43 a Udine, cioè Nunatak, rivista di storie, culture e lotte della montagna. Si tratta dell'ultimo numero, il numero 75, inverno 2024-2025. È un numero molto interessante, ci sono tanti articoli importanti, e diciamo che il filo conduttore sono le cicatrici. Infatti l'editoriale si intitola proprio Cicatrici, ma cicatrici intese non solo come segni della violenza e del dolore, anche, ma anche come rimarginazioni e quindi possibilità di rinascita. Ascoltiamo ancora un pezzo e poi partiamo. We are the ones. E intanto volevo presentare la band che stiamo ascoltando in sottofondo, sono i Migra Violenta, band argentina di Buenos Aires. Questo è un loro CD split uscito nel 2003 assieme ad un'altra band, è una band statunitense californiana, ovvero i Contra-Attack. Far fiorire il deserto di Sara El Sol, che è una antropologa medica. Ci dice: nel 1969, 21 anni dopo che le potenze occidentali avevano ridisegnato i confini del Levante e creato la colonia di colonie di Israele, l'ex primo ministro israeliano Levi Eshkol dichiarò in un discorso: cosa sono i palestinesi? Quando sono arrivato qui c'erano 250.000 non ebrei, principalmente arabi e beduini. Era deserto, più che sottosviluppato, niente. Solo dopo che abbiamo fatto fiorire il deserto, si sono interessati a portarcelo via. Questo è stato il primo utilizzo registrato del detto far fiorire il deserto, un'espressione che da allora ha messo radici e come un'erbaccia infestante si è diffusa in tutte le concezioni popolari di Israele, sia a livello nazionale che all'estero. 56 anni dopo, nel gennaio 2025, la giornalista palestinese e narratrice Bizan Ovda ha visitato Rafah e ha detto: «Sono andata a Rafah oggi. Per la prima volta da maggio 2024. Non c'era più». Qualche settimana prima un'immagine aveva fatto il giro dei social media sionisti. Una scatola di Lego con la scritta Gaza stampata a caratteri cubitali, contenente solo una pila di mattoncini Lego grigi. Lo scherno ha avuto un enorme successo in Israele, suscitando risate ma anche entusiastici sermoni su come avrebbero riqualificato la terra ora che era stata ridotta in cenere. Israele è un'entità con una mitologia di sé ossessivamente curata, una fissazione fanatica nel presentare la propria crudele e sanguinosa genesi come sana, pura e fruttuosa. Questa preoccupazione è tutt'altro che unica tra i progetti coloniali, che hanno sempre cercato di ritrarre la loro violenza come una missione civilizzatrice portata avanti da nobili coloni in un territorio sterile e ostile che deve essere trasformato per allinearsi alle nozioni occidentali di civiltà e produttività. Ciò che è degno di nota nel caso israeliano è l'iperbole, un'esagerazione a livello di farsa che è indiscutibilmente ovvia per chiunque abbia occhi per vedere. A volte queste frasi ad effetto di costruzione della nazione sembrano una presa in giro deliberata. Frasi tipo «l'esercito più morale del mondo, che documenta allegramente brutali crimini di guerra mentre gioca con i giocattoli delle loro vittime bambine, attacchi chirurgici che inceneriscono intere tendopoli nei cortili degli ospedali». La giustapposizione di questa barbarie estrema con la serena e quasi popolare promozione culturale di Israele è una manipolazione psicologica su scala industriale. Creare il vuoto. Ultimamente sono stata ossessionata dalla frase «far fiorire il deserto». Mi risuona continuamente in testa mentre guardo video di città palestinesi e libanesi ridotte in polvere, di bambini che vagano persi tra i resti scheletrici delle città, di neonati che hanno appena imparato a camminare e parlare e chiedono agli zii se le loro gambe amputate ricresceranno. Qualche mese fa ho visto una delle cose peggiori che abbia mai visto. I resti di un uomo, scoppiati sotto il peso di un carro armato israeliano, l'interno del suo corpo con uno spettacolo di colori vivaci contro il grigio infinito che lo circondava. I testimoni hanno affermato che era stato investito vivo, il sangue che scorreva ancora nelle sue vene mentre veniva spremuto sulle macerie sotto di lui. Il suo nome era Jamal Azur. Jamal significa bellezza in arabo. Il giorno dopo un artista ha reinventato la scena disegnando fiori dove giacevano i suoi organi schiacciati, fiori strani e insanguinati che ricordano lo strano frutto del Sud America, sangue sulle foglie e sangue alla radice. Qualche settimana dopo un'altra immagine è diventata virale, un artista aveva abbozzato una delle scene più orribili di questo genocidio, un padre che sorregge il figlio senza testa, supplicando un mondo senza cuore di fermare le bombe e l'ha disegnata con un fiore rosso che cresce dal collo mozzato del bambino. Tutto attorno a questa macabra fioritura, un deserto infernale di polvere grigia e fuoco arancione. Come annullare l'orrore, tornare a quando la testa del bambino era attaccata al suo corpo e i fiori crescevano dalla terra verde? Susan Sontag, nella sua opera fondamentale riguardo al dolore degli altri, ci avverte che assistere a un inferno non ci dice come superarlo. La compassione, come i fiori, appassisce se non viene curata e prendersi cura della compassione richiede azione. Poco dopo che Israele ha bombardato il cimitero dove è sepolto mio padre, ho visitato la sua tomba e l'ho trovata intatta, ma ricoperta da una polvere ruvida e sabbiosa. La mia famiglia era stata fortunata, ma tutto intorno a me c'erano tombe frantumate e lapidi rotte, tutto avvolto in quella opaca sabbiolina grigia. Ho ripensato alla visione di Eshkol di far fiorire il deserto. Non era il solo ad avere queste idee. I sionisti sono da tempo ossessionati dal conquistarlo, rendendolo produttivo. Questa relazione estrattiva con la terra è una caratteristica ben studiata del colonialismo in tutto il mondo e Israele non fa eccezione. Non sapevano nulla dei complessi ecosistemi che invadevano e difficilmente riconoscevano le persone che li abitavano, se non come un fastidio da eliminare. Mentre il progetto di colonizzazione sionista avanzava, trasformava la natura in un'arma per coprire le sue scene del crimine, piantando foreste sulle rovine di villaggi etnicamente ripuliti e circondando i quartieri palestinesi con parchi nazionali, tagliandoli fuori e limitandone lo sviluppo. Questi sforzi sono presentati come una lotta alla desertificazione e al ripristino dei paesaggi naturali, quando in realtà si basano in gran parte su pini non autoctoni che danneggiano gli ecosistemi locali e aumentano il rischio di incendi boschivi. Questa compulsione a controllare la terra si estende al controllo del rapporto dei nativi con essa, come dimostrato dal divieto israeliano del 1977 di raccogliere zatar selvatico. Il zatar è una specie di origano. Questa legge, che punisce la raccolta dello zatar, un alimento vegetale base secolare della dieta palestinese, con una pena fino a 3 anni di carcere, è presentata come uno sforzo di conservazione. In pratica, viene utilizzata per soggiogare ulteriormente i palestinesi e tentare di separarli dalle pratiche alimentari tradizionali che li collegano alla loro terra. C'è qualcosa di intimo nel modo in cui i sionisti scelgono di distruggere, nella spietatezza bruciante con cui desiderano controllare. Il controllo sul cibo e sull'agricoltura è un aspetto significativo della mitologia nazionale del sionismo, che fiorisce nel deserto ed è stato un importante contributo ai suoi sforzi genocidi contro il popolo palestinese. All'inizio del genocidio di Gaza, una delle prime cose che Israele ha fatto è stata quella di tagliare le forniture d'acqua. Nelle ultime settimane hanno sostituito i sacchi di zucchero con sacchi di sabbia in una spedizione di aiuti alimentari. I video degli affamati abitanti di Gaza che ne ricevevano la spedizione li mostravano mentre aprivano un sacco dopo l'altro, rovesciandoli sul terreno sottostante. Case di alla sabbia, cibo alla sabbia, speranze alla sabbia. L'orrore di questa violenza risiede nell'impegno assoluto a imporre la disperazione con ogni mezzo necessario. La Palestina fiorirà con la sua gente. Nel bombardare la loro strada verso la desolata terra dei loro sogni, gli occupanti di questo mondo vogliono che dimentichiamo che la Palestina sia mai esistita, ma credo a mia nonna, che prima della sua recente morte ricordava chiaramente una Palestina libera e fiorente. Credo ai palestinesi e ai miei compagni in tutto il mondo del Movimento di Liberazione Palestinese, che sanno che questa Palestina libera esisterà di nuovo molto tempo dopo la caduta del sionismo. La gente della terra è stata chiara, non si muoverà. Un tema ricorrente tra rimpatriati, sia nel nord di Gaza che nel sud del Libano, è stato trovare fiori che crescevano tra le macerie delle loro case, con molte persone che pubblicavano in rete foto dei fiori tra macerie e polvere. Parlare di fiori può sembrare banale, ma dobbiamo permettere a queste immagini di sostenere il nostro ottimismo rivoluzionario, senza romanticizzarle. La Palestina non è mai stata un deserto, almeno non nel modo in cui fantasticano i sionisti, ma fiorirà di nuovo. I fiori che crescono dalle tombe dei nostri martiri sono nutriti dal loro sangue, mentre i fiori che crescono nelle teste dei nostri assassini si nutrono del loro odio per noi. Solo uno di questi può davvero sbocciare. I fiori non possono crescere dall'odio. Questo era appunto questo articolo di Sara El Sol, dottoressa e antropologa medica, che è stato pubblicato sul blog Invicta Palestina, e nello stesso blog ci sono anche delle testimonianze di agricoltori di Gaza che vale la pena di ricordare che i terreni coltivati comprendono il 41% della striscia di Gaza, quindi non poco, e prima della guerra l'agricoltura era una prima del 2023, insomma del 7 ottobre 2023, l'agricoltura era una delle componenti più importanti delle produzioni, insomma, interne a Gaza, contribuendo praticamente all'alimentazione, insomma, locale. E praticamente in questo anno e mezzo di genocidio e di bombardamenti continui, quasi il 70% dei terreni coltivati di Gaza è stato distrutto dall'esercito israeliano, altro che far fiorire il deserto. E questi contadini, appunto, nelle loro testimonianze raccontano che fare i contadini, qui questo articolo è questa testimonianza di un mese fa, quindi diciamo che era nella fase in cui i palestinesi ritornavano a Gaza, no? Perché c'era stata questa specie di cessate il fuoco, e appunto questi contadini dicono sono tornato e ho trovato la mia terra come se fosse un deserto, non c'è acqua, non ci sono attrezzature e non c'è nemmeno la sicurezza di lavorare qui. Non si tratta solo di arare e piantare, è una battaglia per la sopravvivenza e l'agricoltore è il maggior perdente. Scaverò un nuovo pozzo che dipende dai generatori di energia, ma il carburante non è disponibile, ha detto, riferendosi al blocco israeliano sul carburante, per non parlare del fatto che la maggior parte dei tubi per l'irrigazione è stata completamente distrutta. E avanti. Fin dal primo giorno ho trovato resti di granate scheggiate nella terra, alcuni sepolti, altri visibili in superficie, ma il disastro non è solo in questi rifiuti, ma anche nelle tossine lasciate sul terreno. Questa terra ci dava i migliori raccolti di cetrioli e pomodoro. Oggi anche le erbacce non crescono più come una volta. Nonostante ciò, questo contadino afferma che continuerà a lavorare sulla sua terra e che questa è una forma di resistenza. Siamo riusciti a fare affidamento su noi stessi per procurarci semi e piantine, ha detto. Spera che con il tempo e lo sforzo il terreno riprenda vita e che i suoi cetrioli e patate e pomodoro tornino a crescere. E su questa questione qui poi della del distruggere tutte le di far sì che i palestinesi non possano accedere all'acqua, è una roba storica, diciamo, cioè non riguarda solamente le fasi acute, diciamo, del progetto sionista di genocidio, ma è trasversale, cioè riguarda in maniera trasversale la storia dell'occupazione da parte di Israele della Palestina. Cioè hanno sempre rubato l'acqua ai palestinesi e tra l'altro sono all'avanguardia gli israeliani per i progetti di agricoltura 4.0, specificamente per mettere in piedi sistemi di irrigazione, appunto, da remoto, con i droni, con coi sensori, eccetera, eccetera, e studiano specificamente anche delle tipologie, diciamo, di coltivazioni di piante che possano resistere ai cambiamenti climatici, alla siccità, eccetera. E questi progetti scellerati, l'università, le varie università israeliane li portano avanti anche con l'università di Udine. Allora, io avevo trovato l'altra settimana che c'era stato questo progetto tra UniUD e l'Università di Gerusalemme, questo era del 2014, però in realtà questi progetti sono ancora in piedi, cioè ci sono varie collaborazioni e in questo nostro anno ultimo, 2024-2025, c'è questa collaborazione sempre tra UniUD e l'Università Ben Gurion di Negev, e anche sempre per questi sistemi all'avanguardia di irrigazione, appunto, e specificamente riguarda sia questi progetti del 2014 che di quelli del 2025, le viti. E ecco, quindi insomma, sperimentazione, diciamo, per la produzione di delle cosiddette eccellenze sulla pelle e a spesa della morte della popolazione palestinese. Ecco, anche queste collaborazioni qua delle università sono gravissime, non solamente quelle per l'industria alimentare militare, ma anche queste per l'agroindustria, perché sono strettamente collegate, è tutto collegato. Abbiamo visto che il progetto di annientamento totale del popolo palestinese e di colonizzazione della terra da parte del regime sionista passa proprio attraverso anche queste tecnologie e biotecnologie, insomma, e non solo attraverso gli armamenti. Bene, poi faremo un altro collegamento su questa cosa parlava nell'articolo la Sara Elsol dell'utilizzo anche di piantumazioni di pini comunque conifere non autoctone sopra i villaggi distrutti, rasi al suolo e dopo che la popolazione è stata massacrata, proprio per nascondere anche i resti, no? Diciamo archeologici, la memoria anche archeologica di questi villaggi. E questo è successo anche quando c'è stato, appunto, questo massacro, questa disgrazia di Deir Yassin. E dopo lo vedremo, appunto, nello scritto di quest'altra donna palestinese. Questo sistema di piantumare, appunto, piante non autoctone e di spacciare queste piantumazioni per salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi, eccetera, e per robe green, avviene anche nel territorio di Cile e Argentina, da parte dei governi, degli stati, contro i Mapuche, contro le comunità dei Mapuche. Anche qui le terre tradizionali, le loro terre, vengono rimboscate, ma chiaramente questo rimboschimento è una grave disgrazia per loro, ma non solo per le comunità, anche proprio per la terra in sé. Thank you. minus 1 minute to reach minimum safe distance. Stiamo ascoltando questa band californiana, loro sono i Total Chaos, band che si è formata alla fine degli anni 80 e questo sono brani estrapolati da un loro album che si chiama 17 Years of Chaos, ovvero uscito dopo 17 anni che la band si è formata, quindi 2016, che bravo. Nemmeno ricordo se ho detto 2006 o 2016, comunque 2006 è uscito questo album. Now all the scabby sons of come. Un saluto caloroso da, anche da parte mia a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Zardins Magnetics, 10 aprile. Invece, oppure anche un caloroso saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Eustachio, specificamente per loro un promemoria. Se ci state ascoltando adesso su Radio Eustachio, ricordatevi che dopo il Ponte Radio, cioè dopo le insomma nel pomeriggio a partire del 15:30, ci sarà una diretta redazionale che andrà a approfondire proprio queste questioni della, diciamo, sopravvivenza grazie alla coltivazione della terra, non al suo sfruttamento, con un agricoltore palestinese, e quindi sicuramente, ecco, continua il percorso, insomma, che qui abbiamo fatto stasera, insomma, continua nel pomeriggio. È tutto qui. Sì, adesso appunto parliamo di Deir Yassin, che era un villaggio vicino a Gerusalemme, cioè non è che era, è ancora un villaggio, ma è stato trasfigurato appunto in seguito a questo eccidio avvenuto 77 anni fa e a questa distruzione. E questa è la testimonianza di una donna palestinese che si chiama Dina El Muti, che racconta un po' la storia della sua famiglia. Il titolo di questa testimonianza è Deir Yassin. Scusate, Gaza non è Deir Yassin e non lo sarà mai. E vediamo che cosa ci intende dire. 77 anni fa la storia della mia famiglia è stata cambiata per sempre dal massacro di Deir Yassin. Per questo motivo vedo tutto attraverso il filtro della Nakba e il genocidio di Gaza attraverso la lente del Sumud. Mia nonna navigava nella vita con la Sumud, la fermezza, come bussola. Le sue cicatrici erano l'inchiostro indelebile che raccontava storie di dolore così profondo che le pietre piangevano. Il suo villaggio, Deir Yassin, era rinomato per le pietre estratte dalle cave. Oggi, intorno al villaggio, si estende una foresta di pini non autoctoni, piantati in un terreno irrigato da strati di morti dimenticate. Il nome del villaggio è stato calpestato e cambiato in Kfar Saul, che in ebraico significa villaggio preso in prestito. Però per tutti i palestinesi sarà sempre Deir Yassin. In una serenità mal servita, il villaggio ospita pazienti psichiatrici che trascorrono le loro vite sicure e protette in cortili curatissimi, senza la minima idea o interesse su come siano arrivati a tutto questo. Questo pittoresco villaggio funge anche da centro culturale per i festival musicali stile Woodstock, dove festaioli incalliti vengono a ballare sulle tombe dei suoi originari abitanti. I resti delle lapidi, però, si ergono come avanguardie contro le narrazioni amnesiche, in contrasto con i miti utopici e mitici del sionismo, del passato e del presente. Queste lapidi sono la prova che la Nakba rimane una presenza inquietante, ovunque i sionisti impongano la loro presenza vuota e artificiale. Quando torno a Deir Yassin mi ritrovo dietro una recinzione dispettosa che mi impedisce di toccare la casa di pietre di mia nonna. Il cuore mi si blocca in gola, intrappolato e turbato dalla sensazione di essere io l'intrusa del villaggio, che però è il villaggio della mia famiglia. Sullo sfondo del genocidio ricordo Gaza, un'enclave decimata per far posto a complessi residenziali di lusso. Non è più un fatto evidente o teorico. Le promesse di sicurezza sono musica per le orecchie sioniste, ma quel canto sinistro sarà soffocato dalle grida agghiaccianti dei bambini palestinesi che echeggiano tra le macerie. La soluzione finale di Israele non è iniziata il 7 ottobre 2023, è iniziata la mattina del 9 aprile 1948, quando i gruppi sionisti militanti, l'Irgun e la banda Stern, invasero il tranquillo villaggio di Deir Yassin e massacrarono oltre 250 persone. Al calar della notte, gli assassini hanno abbandonato 55 bambini orfani sopravvissuti in un vicolo vicino alla chiesa del Santo Sepolcro, nella città vecchia di Gerusalemme. Una di quei bambini era mia nonna Fatima. E continua Dina El Muti. Commemoriamo Deir Yassin per ricordare le montagne di morti trattati come numeri astratti, disumanizzati e senza volto. Ricordare ci permette di immaginare bambini soli e terrorizzati, ammucchiati sui camion e condotti in processione per le città, in fuga dalle uniche case che avessero mai conosciuto. Bambini affamati, assetati, soli, confusi, spaventati, sotto shock, in camicia da notte, biancheria intima sporca, con l'odore di sangue e di urina. Tremori che terrorizzavano i loro piccoli corpi. Quando ricordiamo Deir Yassin e Gaza, restituiamo dignità a quella massa anonima di ossa e cenere polverizzate, affinché tornino a essere Fatima, Hind, Rem, Tarek Refat, Shaban, Soraya, Sakena, Ahmad, che conoscevamo. Ricordiamo gli esseri umani preziosi, le cui vite sacre rimangono parte della nostra storia e del nostro modello. La violenza è inestricabilmente intrecciata con la menzogna. Non ci fu alcun cessate il fuoco il 9 aprile del 1948, né il 6 ottobre 2023, né in nessun giorno prima o dopo. Deir Yassin ha inaugurato il ciclo continuo del sionismo, in cui un assalto israeliano riprende da dove si era interrotto l'ultimo, completando l'insidiosa campagna di sfollamenti forzati, espropriazioni, controllo demografico e sterminio dei palestinesi. Il massacro ha creato il precedente per quello che oggi sarebbe diventato un genocidio accelerato e automatizzato, trasmesso in diretta streaming a Gaza. I sionisti hanno commesso atti simili a Deir Yassin migliaia di volte. Oggi i palestinesi hanno imparato le orribili lezioni di Deir Yassin. I palestinesi di Gaza, come pietre umane, adamantine e incrollabili, restano. Gaza accende un senso di orgoglio, un senso di dignità, che lascia dietro di sé un'eredità incrollabile di resistenza. Gaza non è Deir Yassin e non lo sarà mai. Il terrore che un tempo ci attanagliava da Deir Yassin non c'è più. Un indistruttibile senso di liberazione lo ha sostituito, perché Gaza ci ha liberati tutti. E il fatto è che i sionisti falliranno inevitabilmente, come tutti gli oppressori. Il loro tempo è segnato. Il mio corpo porta con sé il mondo di mia nonna. La sua storia ha infranto le illusioni di un impero. Ascoltare la sua testimonianza ha evocato visceralmente un terrore di decenni fa. Mi ha dato stabilità come un secondo scheletro, e le mie ossa portano questo trauma da generazioni. È il peso più leggero che abbia mai trasportato, e continuerò a portarla con me, anche se si tratta di un'azione infinitesimale, trascurabile, in confronto ai sacrifici di coloro che combattono a Gaza, Jenin, Tulkarem. E conclude questa scrittrice Dina Elmuti: dobbiamo sistematicamente scavare il paesaggio del silenzio arrogante, affinché il mondo ascolti ripetutamente le nostre storie. Così facendo, continueremo a sconvolgere i meccanismi che operano al cuore della violenza genocida. Signor giudice, sono palestinese e non ho commesso alcun reato né in Italia né in qualsiasi altro paese. Considerato il palestinese terrorista non per la legittima resistenza che porta avanti contro uno Stato occupante, ma perché riconoscete Israele come uno Stato amico. Tanto vale allora cambiare il nome delle corti internazionali umanitarie in corti degli amici. Volete che mi difenda dalle accuse a mio carico, ma mi vergogno di cercare la soluzione da accuse che per me rappresentano un motivo di onore. Giuro che non intendo essere assolto dalla legittima resistenza contro l'occupazione sionista. Signor giudice, contro di noi si sono schierate tutte le nazioni e gli eserciti del mondo, pensando di liquidare la nostra causa. Ma la nostra causa non finirà e i nostri diritti li avremo. Non chiediamo pietà a nessuno, non ci inchiniamo davanti a nessuno, anche a costo di essere tutti uccisi, arrestati o deportati. Signor giudice, in passato sono stato sottoposto decine di volte alla tortura. Sono anche stato vittima di tentati assassini da parte di Israele. Nel mio corpo vi sono 11 proiettili e oltre 40 schegge. Non ho un osso che non sia stato rotto. Non ho un passato se non alcuni ricordi e foto di amici uccisi per mano dell'occupazione e di un'amica giustiziata a sangue freddo davanti ai miei occhi. Ciò nonostante, non ho mai fatto un passo indietro né esitato nel rivendicare il diritto del mio paese alla libertà. Cosa sarà mai essere ucciso per la libertà del mio paese e del mio popolo? Cosa sarà mai trascorrere anni in carcere per la mia causa? Se c'è una cosa che mi rattrista è che tutti i miei compagni hanno avuto l'onore di cadere martiri lottando per la Palestina, nutrendo con il loro sangue quella terra di pace e amore violata dall'occupazione sionista. E io non ero al loro fianco. Preferiamo la morte con dignità e onore a vivere nell'umiliazione, con i nostri diritti negati. Quando la Palestina chiama, ferita, ha solo noi, suoi figli, disposti a difenderla con l'anima e con il sangue. Chi non difende la propria madre quando ha bisogno di lui, un domani non avrà il diritto di essere seppellito nella sua stessa terra, ammaffiato dal sangue dei morti. È un figlio indegno che verrà respinto dalla sua stessa madre e non sentirà mai calore né in vita né in morte. Noi palestinesi siamo un popolo libero e non accetteremo mai di essere gli schiavi di nessuno. Viva la Palestina libera e Allah. Viva Gerusalemme, sua eterna capitale. Pace all'anima dei martiri e dei bambini di Palestina. Saremo sempre la prima linea di difesa fino alla liberazione. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band tedesca dell'area di Berlino che è esistita negli anni 90. Sono i Jingo de Lanz, dal loro album Perpetuum Mobile. Sì, e appunto prima leggevamo questa testimonianza di Dina Elmuti, dove lei dice che le cicatrici di sua nonna, sopravvissuta appunto al massacro di Deir Yassin, erano l'inchiostro indelebile che raccontavano la sua storia in pratica. E, come dicevo prima, iniziamo così stasera un po' a presentare il Nunatak, l'ultimo numero di Nunatak, rivista di storia, cultura e lotte della montagna, appunto il 75esimo numero. E appunto il filo conduttore di tutta la rivista sono proprio le cicatrici. E ci dicono i compagni di Nunatak, le cicatrici, segni indelebili che provengono da un passato più o meno lontano, alcune sono visibili, mostre di cemento che deturpano le montagne e nuovi progetti che si accaniscono su di esse, altre sono presenti nella memoria collettiva delle comunità, la violenza del potere, la povertà, lo sfruttamento, alcune sono rimarginate, altre sono invece ferite aperte. Senza piegarsi al disfattismo di un presente che ci pone sfide sempre più ardue e a un passato che ci lascia un'eredità complessa e spesso cruenta, è fondamentale cercare di capire come rendere queste lesioni delle occasioni di guarigione, da cui trarre la forza e gli strumenti in direzione di un futuro dirompente di libertà. Leccarsi le ferite è un comportamento che appartiene a tantissime specie viventi. È necessario mettere la propria saliva sulle lacerazioni per incentivare un processo di rinascita. Il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo, ma davanti a noi si stanno aprendo nuove fratture nelle quali è necessario inserirsi, facendo tesoro di ciò che abbiamo, comprese le nostre ferite. Dovremo essere scevri da ogni spocchia per poter affrontare tutte le contraddizioni che ci troveremo davanti e per trovare complici, magari inaspettati, con cui affrontare le sfide del presente. Nel numero ci sono appunto, c'è un articolo molto approfondito sulle Olimpiadi Invernali 2026, e, appunto, che dovrebbero riguardare Cortina. E, questo articolo è curato dagli antiautoritari di Valtellina. Poi c'è un articolo sull'accanimento terapeutico sulle cicatrici del turismo invernale, praticamente da non rianimare questo turismo invernale. Ci sono delle foto che accompagnano questo articolo incredibili delle piste da sci con la neve finta. Sì, delle robe patetiche con gente che si fa trascinare dai carri con i cavalli sugli sci in truppa, praticamente su questi prati, insomma una roba veramente pietosa. E poi c'è la storia di Platanò, un come posso definirlo, un militante, chiamiamolo così, della banda Bonneau, e c'è un po' tutta la sua storia, praticamente di, insomma, figlio di NN, è scappato dalla miseria delle Alpi Cunesi e vive Giuseppe Platanò tra la fine 800 e inizio 900, una vita avventurosa, falsario, fare delle rapine, furti d'auto eccetera, e poi però appunto milita anche nella banda Bonneau. E poi c'è un articolo molto interessante sul Messico, le località dei Monti Mazatecchi, sulla lotta comunitaria, la repressione e la strumentalizzazione del femminismo ai danni di così guerriglieri latitanti. E anche qui è molto interessante perché un po' mette il dito sulla piaga, no? Anche di un certo, chiamiamolo orientalismo, cioè di un certo sfruttamento, diciamo, di concetti che vanno per la maggiore in Occidente, ma e che vengono lì piegati per delegittimare, insomma, per sminuire le lotte delle popolazioni native. In questo caso specifico proprio si tratta di prigionieri, cioè latitanti anarchici che sono stati condannati a ergastoli, cioè robe veramente, per aver partecipato appunto all'autodeterminazione, alle lotte di autodeterminazione delle popolazioni contro quindi delle comunità, delle strutture comunitarie, diciamo, delle popolazioni contro le strutture statali e anche contro i cacicchi, cioè questi grandi, medi, grandi proprietari che anche di sinistra, tra virgolette, cioè progressisti sulla carta, ma poi alla fine speculatori e insomma oppressori tanto quanto quegli altri. E, ecco, si parla proprio delle comunità indigene, non trovavo la località esatta, dello stato di Oaxaca. E, boh, magari approfondiremo, perché veramente sono sì, cose che poi si possono fare vari collegamenti anche in questi, anche in Messico ad esempio, per così mettere in cattiva luce le lotte degli indigeni, queste persone vengono accusate di crimini efferati, comuni tra virgolette, ma nel senso di crimini odiosi, e quindi viene strumentalizzata questa cosa qua, cioè vengono accusati di, non so, di brutali assassini, di aggressioni vigliacche, così, e, per appunto sminuire la loro attività politica. Questa cosa avviene, tra l'altro, ricordiamocelo, torniamo anche qui al Cile, perché anche Monica Caballero ad esempio è stata infamata, era già dentro, ma è stata accusata quando era già dentro, per i motivi insomma che sappiamo di lotta politica, per robe sordide di spaccio, di robe, quindi sempre cercare di infangare, no? La forza, anche l'autorevolezza di chi lotta appunto per l'autodeterminazione e la libertà, anche a costo della propria vita, come nel caso di questi compagni, di Monica Caballero e di Peralta, esatto, non però mi viene il nome. Abbiamo parlato. Sì, avevamo anche parlato già, infatti, di questo compagno che appunto è stato molto dentro, poi è stato scarcerato, poi è stato ha deciso insomma di andare in clandestinità, perché altrimenti avrebbe dovuto rimanere dentro tutta la vita. E ecco, e poi si parla nel numero, in questo ultimo numero di Nunatak, anche di c'è un articolo di Daniele Peppino, un articolo storico appunto sui vari movimenti, insomma, delle guerre dei contadini, sulla Lega dello Scarpone, viene nominato Tavo Buratta, insomma, tutti un po' gli studi che Tavo Buratta ha fatto su questi argomenti, cioè sulla riforma, quindi, e anche però sui movimenti pauperisti, millenaristi, insomma, che si sono opposti poi a Lutero come uomo di potere, diciamo, e appunto hanno dato origine a queste rivolte spontanee. E poi ci sono anche delle interessanti testimonianze dal lavoro di compagni di varie età e di varia provenienza che hanno fatto l'esperienza di lavorare negli alpeggi, e quindi di questi come malgari proprio. E sono interessanti racconti, perché appunto parlano anche della vita reale, anche della fatica reale molto consistente di questo tipo di mestieri. E infine c'è un altro articolo che magari appunto sul quale varrà la pena di tornare, che è per ritornare al discorso delle cicatrici, il discorso delle frontiere. Qui parliamo di Alpi occidentali, di Alpi cozie, ma possiamo trasportare questo discorso anche qui da noi, appunto le frontiere delle Alpi, dei crinali, che sono appunto, rappresentano delle ferite, no? E di questo volevo dirvi una roba, vediamo se riesco a trovare. Sì, c'era, tra l'altro, questo è il secondo numero, il secondo intervento. Il primo intervento era comparso, sempre su questo argomento, era comparso nell'estate 2023 sul Nunatak numero 69, che se vi interessa trovate sempre nello spazio autogestito di Via De Rubais qua a Udine. Allora, sì, era solo l'ultima, sì, la conclusione, diciamo di questo articolo sulla frontiera come ferita. Medicare la ferita. Sulle pagine di Nunatak sovente ci siamo concentrati sulle dinamiche che caratterizzano oggi il territorio frontaliero alpino occidentale, cercando di porre sotto luce critica gli aspetti che rappresentano le conseguenze più dirette e significative di questo squarcio tracciato tempo fa a compasso e righello, che tuttora non smette di sanguinare. Dalle Alpi, come teatro migratorio vecchio e nuovo cimitero, a selva di accordi bilaterali sulla circolazione di persone e merci, da laboratorio di sperimentazione repressiva a terreno di contatto tra procure per la gestione dei conflitti giudiziari e mandati di arresto europei, da oggetto di attenzione come corridoio di mercato, armamenti e nocività, ad accattivante brand di investimenti pubblici e privati transfrontalieri. Assieme a questo ingombrante carico di negatività, la rivista ha dato una forte attenzione al territorio frontaliero, anche come terreno di libertà, solidarietà, autodeterminazione e possibilità, dai fenomeni di resistenza, banditismo e contrabbando antichi e recenti, al luogo di sperimentazione e rielaborazione musicale e culturale, sino agli interessanti interventi sui suoi movimenti autonomisti apparsi negli ultimi numeri. Nei migliori dei casi abbiamo letto e scritto di come le Alpi occidentali siano diventate anche terreno di concrete e significative prospettive di lotta, no TAV, no borders, no nucleare, per citarne qualcuna. Che nonostante i profondi limiti e le numerose possibilità tuttora inesplorate negli anni hanno timidamente incentivato riconnessioni intervallive interfrontaliere, risollevando e mettendo in discussione il problema della frontiera al centro del dibattito militante, in termini tanto storici quanto soprattutto politici ed economici. Va bene, sì, boh. Scusate che mi sono persa. Sì, per riprendere in mano l'antico e profondo significato ecologico che ci lega al territorio che viviamo, in che modo, insomma, potremmo riarticolare un mondo baricentrato sulle terre alte, ristabilendone un rapporto di stretta interdipendenza, al di là dei segni sulla carta che, come abbiamo visto, ancora appaiono alla prova della storia nella sua profondità cronologica, effimeri e vacui. Questo è... allora, siamo 9, sì, 21 e 23, quindi siamo un po' quasi in finale. Prima di dare la parola alla regia per i contatti, eccetera, e anche prima di mettere gli ultimi brani musicali, io volevo dire ricordare intanto due iniziative che ci saranno in questi giorni. Cioè, una molto presto, cioè domenica 13, e l'altra invece domenica 27. Aprile. Allora, domenica 13, a proposito appunto di frontiere e delle ferite delle frontiere, ci sarà un presidio a Gradisca di Sonzo, fuori dal CPR maledetto, l'appuntamento è alle ore 18, davanti al CARA, la postazione che di solito si prende quando si fanno i presidi al CPR di Gradisca. È importante ribadire la solidarietà, ribadire anche il dialogo che non si interrompe mai con i prigionieri, e anche in questo momento qua in cui lo ricordiamo che il discorso del decreto sicurezza, decreto legge sicurezza, che va a colpire insomma in maniera drammatica appunto i prigionieri sia dei centri per il rimpatrio che delle carceri. E quindi appuntamento domenica 13 aprile alle ore 18 a Gradisca di Sonzo davanti al CARA. E poi volevo ricordare anche, ne parleremo in maniera più approfondita la prossima volta, un'iniziativa che organizzeremo come Assemblea Sabotiamo la Guerra a Udine, nello spazio autogestito di Via De Rubais, e un'iniziativa appunto contro la Leonardo Fabbrica di Morte, e un incontro con il collettivo studentesco Sumud e anche ci parleranno insomma i compagni anche di questo opuscolo che hanno curato, un opuscolo che si intitola O la guerra o la vita. Si tratta di un dossier sullo stabilimento di Leonardo S.P.A. a Tessera nel comune di Venezia, e cercheremo insomma di fare dei collegamenti tra appunto tra la Leonardo di Tessera in comune di Venezia e la Leonardo di Ronchi di Monfalcone in provincia di Gorizia, e per vedere insomma come si può veramente inceppare la macchina bellica e ciò che ci sta dietro, a partire proprio dai territori in cui si vive. Io per stasera vi saluto e do la parola alla regia. Ciao. Bene, teniamo in sottofondo questa band che stiamo ascoltando prima di salutarvi definitivamente. Oggi giovedì 10 aprile 2025, qui in diretta dal programma di Zardins Magnetics, che viene trasmesso in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Band che stiamo ascoltando in sottofondo sono gli Stretch Heads, band inglese che era esistita a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e i brani che stiamo ascoltando sono estrapolati dal loro primo appunto album, datato 1988. Come detto, siamo giunti alla termine di questa trasmissione, di conseguenza vi leggiamo anche i nostri contatti se volete scriverci, che è una cosa che non fate mai, forse bene, forse male, chi lo sa. Comunque dovete intestare il tutto scrivendo nella posta elettronica alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121, ripeto pure questo, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Ricordo anche che se volete riascoltare questa trasmissione, quella di appunto appena trascorsa, ma anche quella delle volte scorse, potete andare sull'internet cercando zardinsmagnetixradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagnetixradio.noblogs.org. Bene, l'appuntamento è per il prossimo giovedì e anche ormai che siamo giunti alla fine salutiamo chi ci ha ascoltato su Radio Eustachio, che è il programma iniziato alle ore 11 di venerdì mattina, quindi domani 11 aprile, e chi anche ci ha ascoltato su Radiazione che dalle ore 17, sempre domani venerdì 11 aprile. E altra cosa che specifico, che questi due programmi in replica sono su entrambi su una web radio. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio ancora con un ultimo brano per questi Stretch Heads.